mattino, tra il sussurro e il destino, Simone Pizzi guida il cammino con occhi da matto senza confini. Un viaggio di parole, un incontro genuino, nel cuore della vita, nel suo intimo, rincorrersi. Ah, belli de casa, bentornati ancora una volta qui su questa che è una nuova versione del Grande Reset che ci accompagnerà per i periodi estivi fino a che non andremo ovviamente in ferie in senso più definitivo, più reale, insomma, diciamo così. Grande Reset che si presenta in questa versione off season, dove farò un programma, un talk radiofonico classico, cioè dove c'è uno speaker che parla e dice cose tra una canzone e l'altra, che non è tanto diverso da prima, ma invece di cercare degli argomenti cercherò ovviamente di stare su mini argomenti, diciamo. Ogni segmento ci avrà un mini argomento, quindi magari saranno tre o quattro brani musicali e cercheremo di inframmezzare tra questi stacchi musicali delle canzoni, mentre io invece ne approfitto per ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato privatamente, tramite mail, tramite messaggio, il loro parere, la loro opinione, il loro sentimento anche da questo punto di vista nei miei confronti per quanto riguarda ovviamente la puntata della scorsa settimana. E devo dire che quello che è successo un po' in qualche maniera contraddice pure, perché anzi diciamo crea delle sconnessioni spazio-temporali nella matematica, perché se io dico che il Grande Reset è ascoltato da 5 persone, però poi mi arrivano 25 messaggi, c'è qualcosa che non, o c'è un passaparola oppure qualcosa non va nei dati statistici, ma questo alla fine potrebbe anche non essere importante, e anche chi se ne frega, diciamo così. L'importante è che comunque ci sia stata una reazione, e molti di voi l'ho già ringraziati privatamente, piano piano poi farò anche con tutti gli altri, cercando di dare spiegazioni, cercando di far capire che non muore la radio, non muore il Grande Reset, ma è chiaro che in un contesto dove diciamo il feedback involontario, il feedback statistico è di un certo livello, risulta naturale alla fine pensare di doverci dedicare meno tempo, cioè quindi cercare di dedicarci meno risorse anche dal punto di vista temporale, energetico, diciamo così, cioè nel senso proprio della nostra giornata. Perché? Perché è anche giusto così, no? Però questo non significa che poi le cose muoiono, cambiano, chissà che cosa, anche perché questa è una fase storica del Runtime Radio particolare, in una flessione dopo un momento così importante come quello che abbiamo avuto quando abbiamo avuto tutta quella community che si è stretta praticamente intorno a noi, ed è stato molto bello, e quindi ci sta, è anche nell'evoluzione delle cose, non è un rammarico stare qui a dire ah, oddio oddio noi poverini, ci sta. Poi magari le cose ricambieranno ulteriormente, questo non lo possiamo dire per ora, quindi grazie a tutti e iniziamo con la trasmissione. E vabbè, rientriamo. Comunque, come avevo detto, i brani saranno casuali, no, la maggior parte saranno, cioè noi abbiamo un database molto importante con rock, hard rock, heavy metal, però potrebbe succedere pure che escono fuori delle zozzerie, che ne so, tipo Vamos a ballare, cose del genere. Comunque, prima di parlare dell'argomento, insomma, di cui volevo parlare, tra quelli che ritengo importanti, e forse salterò l'argomento finale, però vediamo adesso come stiamo con i tempi, volevo parlarvi di questa nostra iniziativa del Festival della Canzone Artificiale, che devo dire noi abbiamo dichiarato, insomma, che mercoledì 17 alle ore 21 ci sarà ovviamente la live dove avremmo fatto questo Festival della Canzone Artificiale, e in realtà lo faremo e sarà tutto confermato, soltanto che noi ci aspettavamo, diciamo, di raccogliere le canzoni con molta più fatica, tant'è che noi immaginavamo, noi mettevamo il 15 di luglio come termine ultimo, e in realtà poi alla fine ci siamo resi conto che a ieri abbiamo chiuso le candidature, perché di roba è arrivata tanta, e quindi abbiamo deciso di dividere praticamente il Festival della Canzone Artificiale in due serate, mercoledì 17 e il mercoledì quello successivo, sempre alle ore 21. Poi per dichiarare quali saranno i vincitori, poi insomma vediamo un attimo, ci sarà sicuramente una terza live che non sarà necessariamente magari di sera, o potrebbe essere magari disordinati informati, o vediamo, adesso ci organizziamo, insomma è una cosa totalmente in divenire, perché noi non ci aspettavamo assolutamente che ci sarebbe stata tutta questa partecipazione. Ribadisco che l'idea non è quella di enfatizzare la bellezza della musica artificiale, che ovviamente poi noi ci scherzeremo sopra, la faremo una trasmissione molto molto goliardica, e questo goliardica con rispetto ovviamente anche dei temi, perché alcuni temi sono simpatici, alcuni sono un po' più magari seri, però in generale devo dire la verità, il nostro è stato un esperimento, ecco, diciamo, volevamo fare questa cosa sperimentale perché volevamo prendere l'aspetto della generazione musicale fatta con l'intelligenza artificiale, sui quali ovviamente noi abbiamo tutti i nostri diciamo non dubbi, però insomma ci sono tante cose da tenere in considerazione, no? Un po' controverso questo tema dell'intelligenza artificiale in generale, e dall'altra ovviamente metterci appunto una parte giocosa, no? Nel senso sfidarci a fare una cosa che comunque è sempre un po' una sperimentazione. Quindi la nostra intenzione è quella di fare chiaramente una trasmissione anche brillante su questa cosa, e non consideriamo il festival come una cazzarata, una canzonata, però diciamo che lo scopo è quello di giocare insieme, ecco, insomma di fare queste due serate, giocare insieme, scherzare e anche un po' vedere e ascoltare quali sono i limiti e quali sono le cose interessanti. Quindi faremo due serate con 10 canzoni a serata, le prime tre canzoni passeranno poi alla finalissima, quindi sarà poi una finalissima ovviamente con 6 canzoni, molto più breve, dove ci sarà magari molto più chiacchiere, cercheremo di intervistare magari le 6 persone che sono arrivate alla finale, e poi dichiareremo qual è il vincitore. Quindi vi posso dire intanto in maniera ufficiale quali sono le 10 canzoni della prima serata, quindi quella del 17 luglio. E allora ve le elenco, così, perché insomma voi intanto vi fate un'idea, perché non è che dal titolo delle canzoni capite più di tanto, però potreste capire un po' quello che è il tenore. Allora, Non funziona la wifi di Michele, Papaya di Davide Gatti, quindi pure persone importanti. Ricordiamo che Davide Gatti è stato un grande autore in Italia di italo disco, quindi ha pubblicato dischi anche a livello internazionale, quindi non è l'ultimo degli arrivati. Under the Wild Sky di FR, Gesù e Silenzio di Cisco U2, Rigidismi, la storia di Romano Saluto di Dumb Boy, L'ultimo uomo di Pete 72, Lettera da un orso a una principessina, L'orso, Estate brillante, DJ Maurice versus Pixel Deb, e Alla ricerca del priore di Capitan Kate Harrow, e Caffè di Mattia Poletti. Queste sono le canzoni che si scontreranno nel primissimo turno, e poi domani annunceremo quelle che sono ovviamente le canzoni che invece si scontreranno nel secondo turno. E vabbè, questo è quanto, spero che vi faccia piacere. Sì, ma che si vince niente, dice giustamente Dumboy, non si vince niente, non lo so, ci riflettiamo, ci diamo un altro paio di giorni di tempo, sicuramente una cazzata, però magari qualcosa in palio la mettiamo. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. Vampire Weekend con Walcott, carina questa canzone, devo dire mi è piaciuta moltissimo, ovviamente è tutto assolutamente frutto della generazione casuale della regia automatizzata di Runtime Radio, perché non la conoscevo, però mi è piaciuta. Comunque ragazzi, Simone Cigalone, chi non conosce Simone Cigalone, allora io faccio la premessa. così quei 4 ascoltatori che sono rimasti diventano 2, ma anche se sono rimasti, se ancora erano 4 e non sapevano di questa premessa, diciamo che allora non sono neanche molto attenti. Voi sapete che io sono una persona di profonda ispirazione socialista, mi considero una persona di sinistra, non di estrema sinistra nel senso spacchiamo tutto, ma comunque di sinistra, non di centrosinistra, no? Considero una persona sinistra, la mia estrazione politica è quella degli ultimi atti morenti del Partito Comunista Italiano, quindi questo è per far capire quella che è la mia visione nei confronti del mondo. Se poi invece magari per i più giovani quello che sto dicendo non ha nessun significato, lo posso comprendere, però vengo da una tradizione di cultura e tolleranza, fondamentalmente di visione sociale, che è una cosa assolutamente oggi sono dei miraggi completamente morti, spariti. Simone Cicalone è un personaggio, per chi non lo conosce, che oggi è emerso, diciamo, alle cronache per il suo canale YouTube, anzi per un canale YouTube precedente che si chiamava Scuola di Botte, dato che lui è un ex pugile, diciamo così, che è una cosa che viene diciamo messa subito in evidenza negli articoli che parlano di lui. E questa è una cosa che a lui dà fastidio, perché è come se l'articolista che scrive questa cosa lo specifica mettendo in evidenza la parte negativa. In realtà, se sei stato un ex pugile, è una cosa di cui ovviamente io nel mio articolo parlerò, perché comunque in qualche maniera questa cosa condiziona, no? Chi sei, anche culturalmente o mentalmente, non in senso necessariamente negativo, ma sicuramente comunque ti dà un formamentis, comunque un'impronta, no, questa cosa. Però è vero pure che lui è stato anche una comparsa, un attore, ha bazzicato negli anni 80 e 90, diciamo, quella che era la televisione, soprattutto quella privata, Mediaset, insomma, è uno che è stato, diciamo, in una sorta di circuito per molto tempo. Il suo canale di Scuola di Botte, io ho visto qualcosa, diciamo che tra il serio e il faceto, nel senso che comunque c'erano queste cose anche sulla tecnica, c'erano molte discussioni sulla palestra, sulle metodologie e via dicendo, ma erano anche molto spiritose. Tra l'altro da questo canale nascono tutta una serie di personaggi, come anche Franchino il criminale, per capirci, che è quello che adesso è diventato un food blogger, che dice che fanno schifo i food blogger, però lui alla fine fa il food blogger, quindi è una cosa che vabbè, ma pure Franchino il criminale, insomma, è uno che dovrebbe fare tanta pace con se stesso, insomma, però al di là di questo. E diciamo, in particolare Simone Cicalone si accompagna con Mattia, oddio adesso non mi ricordo come si chiama, che è campione del mondo, pluricampione del mondo di una disciplina, insomma, di fighting, di boxing, famosa molto in America. Adesso però non mi sono preparato su questa questione, ma davvero vabbè, non lo sappiamo. Comunque, fondamentalmente Simone Cicalone oggi, al di là di tutto, è tornato alla cronaca perché ha creato un canale, un suo canale personale, dove lui inizialmente raccontava e documentava determinate situazioni, raccontava anche fatti di cronaca, oppure andava, diciamo, a esplorare realtà, quartieri, situazioni dove ovviamente c'era un certo tipo di degrado, un certo tipo di situazioni. E devo dire, e questo io, cioè, ammetto anche una sorta di non spaccatura dentro di me, perché comunque io quello che considero controverso lo considero e continuerò a considerare controverso, però devo dire che il presupposto di partenza poteva anche starci, ok? Perché fin quando tu ovviamente mi documenti il degrado o determinate situazioni che possono essere comunque la stazione Termini, le zone limitrofe, con tutte queste persone completamente abbandonate a se stesse, senza nessun tipo di assistenza, dove gira alcol, droga, che siano extracomunitari o siano italiani, che fanno la guerra dei poveri, ovviamente, perché quelle 3 risorse che hanno, se le combattono a suon di bottiglie rotte, per me quello che faceva era sempre abbastanza interessante, anche perché lui comunque aveva questo atteggiamento molto propositivo, nel senso comunque lui parlava con questa gente, cercava di dargli una mano, li sosteneva, cercava di far raccontare a loro le situazioni, e di solito andavano lui e sto Mattia al massimo con uno o due, un'altra due o tre persone. Poi questa situazione secondo me in qualche maniera un po' gli è sfuggita di mano, perché arrivando le tante visualizzazioni, quindi diventando lui molto popolare, tant'è che oramai quando lui va in giro a fare queste cose la gente lo ferma: oh Simone, te famo la foto, Cicalone, bella Cicalone, famo se la foto. Chiaramente questa cosa secondo me ha influenzato anche il modo in cui lui ha iniziato a raccontare queste cose, ossia diciamo in maniera un po' più invadente, no? Perché se tu per raccontare una cosa e non sei un giornalista, non sei nelle condizioni di poterlo fare, magari non ti sei neanche accordato, come fanno tante volte i giornalisti, con la realtà per cercare di infilarti, come è successo in un quartiere di Genova, perché mo adesso lui poi non fa più a Roma, va a rompere un po' il cazzo dappertutto, è chiaro che puoi trovare delle situazioni complicate, no? delle situazioni che mettono in difficoltà te e mettono in difficoltà anche gli altri. Quindi lui oramai va in giro con questi 4-5 scagnozzi che io non lo dovrei dire, perché questi magari se lo sentono poi vengono accorcate botte, però diciamo che non è che eccellono, insomma, diciamo in disciplina comportamentale o diciamo in senso di diplomazia. Questi vanno lì proprio perché si vede proprio che gli prudono le mani a questi. Oh, che poi Simone Cicalone si porta a sta gente anche per sicurezza. E questo da una parte lo posso capire, dall'altra chiaramente spesso le situazioni sfuggono dal controllo, e diciamo che non ci sarebbe neanche bisogno che ti porti la scorta dei scagnozzi che non vedono l'ora di menà alla gente, non ci sarebbe bisogno, se tu ovviamente non vai sempre a romper cazzo sempre nella stessa situazione, soprattutto perché quando l'hai documentata la situazione lo sai che le volte successive qualcuno ti aspetterà, qualcuno ti farà l'imboscata, qualcuno ti metterà in mezzo in questa cosa, no? E chiaramente lui poi ovviamente influenzato appunto dalle visualizzazioni vede le cose che fanno più effetto, che piacciono di più, e insiste diciamo su questa situazione qui, e qui diventa un po' una sorta di atteggiamento spettacolarizzante di quello che ovviamente è un certo tipo di disagio, che va completamente in contraddizione con quello che lui inizialmente faceva, ok? Perché comunque lui inizialmente documentava sta cosa, poi che ogni tanto volava nelle bottiglie e via dicendo ci potevano anche stare, però lui teneva sempre la situazione sotto controllo. Adesso la situazione spesso gli sfugge di mano, ma secondo me anche volutamente, perché ha capito che quel casino, quella caciara, le botte, le cose comunque in qualche maniera servono per spettacolarizzare la situazione. Ora, ultimamente si è completamente dedicato ai borseggiatori della metropolitana di Roma. Scusate se sentite il cane che abbaia, ma io non ci posso fare niente. Questo sente altri cani che abbaiano da fuori dalla finestra nell'altro quartiere e deve abbaiare pure lei, perché deve dire la sua. Comunque, adesso si è dedicato ai borseggiatori sotto la metro di Roma. Voi sapete che ci sono tantissimi video sulla metro di Milano dove ci sono queste borseggiatrici riconosciute, che le conoscono tutti, roba del genere, dove ci sta gente che praticamente va lì e praticamente le rincorre con i megafoni facendo attenzione pickpocket, pickpocket, attenzione borseggiatrici, e queste ovviamente sono costrette a scappare. Che diciamo, questo modo di fare vigilanza tra virgolette è comunque più compatibile con il buon senso rispetto a quello che fa Cicalone, però Cicalone si è reso conto che questa cosa è una cosa che funziona, che è un tema che piace molto, e allora si è messo a fare la stessa cosa sotto la metro di Roma. Allora, cioè, la cosa positiva è che io ho scoperto che diciamo che queste gang sudamericane sono arrivate anche a Roma. Io pensavo che fosse una realtà molto concentrata a Milano. Dall'altra, comunque ti rendi conto che un po' la polizia può fare fino a un certo punto, i vigilanti, quelli ufficiali, possono fare fino a un certo punto, e allora loro praticamente che fanno? Inseguono sti borseggiatori, soprattutto quando si rendono conto che hanno rubato, quindi inseguono sti borseggiatori, ovviamente circondandoli, un po' provocandoli, aspettando che succeda qualcosa, però senza fare effettivamente di fatto niente di particolare, no? Però comunque già la situazione è abbastanza provocatoria, soprattutto perché non sta a te fare questo tipo di discorso. Cioè, tu puoi documentare e denunciare quello che succede, ma non è che tu puoi circondare il peruviano e dargli gli spintoni, fargli le cose, ah merda, hai rubato la vecchia, sei la merda, capito? Perché chiaramente questo è un... diciamo va al di là, cioè nel senso si vede che alcuni di questi scagnozzi che si porta dietro non vedono l'ora che quello c'ha una reazione, perché lo, se, cioè, è chiaro, no? E tutto questo poi alla fine, una volta, due volte, tre volte, è sfociato in un'imboscata. È sfociato in un'imboscata che ora Simone Cicalone fa un po' quello non ci aspettavamo. Secondo me si aspettavano, è un po' una cosa che quasi hanno cercato in qualche maniera, perché comunque questi che sono una realtà organizzata, che si telefonano da fermata a fermata, perché ovviamente si danno anche le indicazioni, io ho rubato questo, ho nascosto lì, tu fai, vai, tu apri, vai, muoviti adesso, vai tu, poi vado io. Ovviamente che hanno fatto? Quando, sapendo, insomma, anzi avendo visto Simone Cicalone con tutta la banda, insomma, che stava sotto la metropolitana, qualcuno di questi si è chiamato, loro l'hanno visto, e praticamente ha chiamato altri destinizi dicendo venite alla fermata della metro XY perché c'è Simone Cicalone. E questi che hanno fatto? L'hanno circondati, praticamente hanno cominciato a fare una caciara filmandoli loro addirittura, cioè i peruviani che firmavano a Simone Cicalone, e provocandoli, fino a che ovviamente poi c'è stata qualche spinta, qualche cosa, qualcuno si è buttato per terra e via dicendo. Ora, l'imboscata è brutta, andare a rubare sotto la metro costantemente i turisti è una cosa brutta, soprattutto quando c'è un'organizzazione, perché fino a che si tratta di un borseggiatore qua, là, due o tre borseggiatrici, due zingare, un peruviano, quello che volete, un italiano, quello che sia, ok, è endemico, ci può stare, la polizia fa quello che può fare, ma quando c'è un'organizzazione, e qui stiamo parlando di un'organizzazione, gente organizzata, insomma comincia a diventare un po' più complicato nella mente di chi dovrebbe tollerare nei confronti delle forze dell'ordine una cosa del genere, no? Però non sta Simone Cicalone fa questo tipo di discorso, e non sta a lui ovviamente mettere anche le persone che stanno con lui anche potenzialmente in pericolo, e poi dopo farci chiaramente la morale sul fatto che poi lo criticano perché lui ha fatto questa cosa qui. Ecco, io su questo devo dire la verità, sono abbastanza perplesso, perché l'atteggiamento di Simone Cicalone si è trasformato, anche se diciamo che secondo me i presupposti c'erano già dall'inizio, da documentazione, anche da una mano a chiamare l'ambulanza quando vedeva delle situazioni particolari, a far ripulire la gente, a dare da mangiare a qualcuno, a fare quello che è, a diventava alla fine uno squadrista. Cioè, non uno squadrista, un vigilante, cioè il supereroe, perché poi in questo periodo culturalmente particolare la gente ti vede come un eroe. Ma avete preso un coglione? No, sei un eroe. Vabbè, questa è un'altra citazione, però non c'entra niente. Ecco, io non lo so cosa ne pensate voi, veramente, però è una situazione molto al limite che mi lascia veramente perplesso. E mi lascia soprattutto perplesso il fatto che lui voglia passare anche un po' da vittima in questa situazione, perché è vero che lui comunque fa un lavoro per portare all'attenzione determinate cose, è vero che il Comune di Roma ha reagito, diciamo, facendo delle azioni alle provocazioni di Cicalone, comunque alla documentazione effettiva, no? Cioè quando io ti faccio vedere, è inutile che tu mi fai vedere che hai pulito le strade davanti alla stazione Termini quando intorno, fuori dall'inquadratura, c'è la morte, no? C'è il demonio, e quindi diciamo che questa è una cosa positiva. Dall'altra, secondo me, un po' la spettacolarizzazione, un po' le visualizzazioni, un po' il fatto che quello poi diventa un lavoro, perché YouTube a quei livelli, quando si raggiungono certe visualizzazioni, diventa un lavoro, e quindi sei costretto a tenere quel lavoro sempre a quel livello, se non alzarlo l'asticella, perché altrimenti non ti arrivano i soldi a casa e diventa un po' un problema. Quindi diciamo che sono abbastanza perplesso nel comportamento di Simone Cicalone. Non lo voglio condannare in senso assoluto, però devo dire che quello che fa, secondo me, non va bene. Non so cosa ne pensate voi. E questa era Gorgon di Angel Witch, nota per aver scalato le classifiche della sconoscenza più assoluta, però vabbè, un brano carino, sicuramente voi esperti di... Io metal, hard rock lo ascolto tutto, ma non conosco titoli, lo conosco proprio perché... Poi sì, chiaramente le cose più famose o quelle che proprio rientrano proprio nel mio gusto proprio totale, sì, però insomma in generale comunque c'è un panorama sconfinato. Comunque, vabbè, Cicalone lo lasciamo da parte, invece io volevo parlare della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non mi soffermo sul discorso degli europei perché praticamente mi rendo conto che è un discorso un po', abbiamo fatto mille volte, insomma, l'esperienza di Gravina è generalmente un'esperienza fallimentare di un sistema che è politico prima che sportivo, e quindi non mi soffermo. Però quello che mi soffermo, sulla cosa sulla quale mi soffermo, ed è una cosa che ho sempre riscontrato in generale sin da quando ero ragazzetto e giocavo a calcetto, organizzavo i tornei, oppure c'avevo la mia squadra di calcetto della quale ero presidente, di cui una volta vi racconterò della Starfleet Football Club, questa esperienza, però precedentemente si chiamava Astra, cazzo. Vi racconterò di questa meravigliosa storia perché è una storia bellissima. Comunque, in effetti, quando si organizzano i tornei di calcio, calcetto, calcio a 8, calcio a 7, calcio a pesca, diciamo in generale si fa riferimento a quelle che sono le regolamentazioni e le imposizioni della FIGC. In generale, praticamente, in teoria, sei quasi obbligato a certi livelli ad avere gli arbitri della FIGC, le regole della FIGC, un controllo, se non addirittura un obolo da versare alla FIGC. E questa cosa alla fine si è un po', come dire, riversata soprattutto negli ultimi tempi in una sorta di guerra diciamo associazioni sportive. In che senso? Nel senso che mentre la FIGC è comunque l'organo che definisce il calcio in Italia, si sta creando una situazione molto simile con quello che è la UEFA e la Super League, no? Per capirci. Cioè, nel senso, comunque altre realtà esterne o altre che vogliono organizzare, diciamo, una federazione sportiva per inserire nuovi tipi di tornei. E questa cosa chiaramente sta creando una guerra importante. In Italia, dovete sapere, io una cosa l'ho scoperto recentemente seguendo YouTube, tutti i ragazzi che raccontano le storie delle loro squadre di calcio, calcio a 7 o calcio a 8, che esistono delle federazioni alternative alla FIGC. Ovviamente sono delle federazioni amatoriali, cioè diciamo in quel limbo organizzativo tra l'amatorialità e la semiprofessionalità, nel senso che comunque sono federazioni che organizzano veri e propri campionati a livello nazionale con le varie categorie, quindi la Serie A, la Serie B, la Serie C e via dicendo, fino addirittura alla promozione, se non sbaglio. E questo chiaramente se non tanto nel calcio nello specifico, ma sicuramente nel calcio a 7 e nel calcio a 8, ma anche in altri sport, anche sport olimpici, quindi in generale atletica e via dicendo. E chiaramente questa cosa dalla FIGC nello specifico, perché non so se il CONI abbia lo stesso tipo di atteggiamento che c'ha la FIGC, è una cosa vista chiaramente in una maniera negativa, cioè suburra proprio, insomma, cioè nel senso guai a chi ci tocca quello che è il pane nostro, insomma, fondamentalmente. E quindi negli ultimi anni c'è stata una sorta di avversione, diciamo, di lotta non tanto come posso dire nascosta da parte della FIGC nei confronti di queste paraorganizzazioni, cioè queste federazioni che si riorganizzano ad un livello diverso da quello della FIGC, quindi costruendo anche una loro realtà arbitrale, se non addirittura invece magari utilizzando gli arbitri dell'AIA, quindi della FIGC, insomma. Quindi c'è magari a volte anche un connubio, però poi bisogna vedere, perché la FIGC magari impone comunque un pagamento di alcune tasse su determinati tornei, oppure non ti manda gli arbitri se ovviamente quel determinato torneo non è integrato all'interno di quello che è registrato, insomma, secondo la FIGC. Ecco, insomma, la FIGC si comporta in maniera monopolista, diciamo, da questo punto di vista, e negli anni, dato che nessuno si è mai preoccupato di questa situazione, ovviamente l'ha fatto più o meno implicitamente, cioè non è che si è mai preoccupato più tanto di però insomma sta roba non si fa, no? E quindi è successo che ovviamente con la nascita e anche l'importanza che hanno assunto queste federazioni alternative alla FIGC, soprattutto grazie a YouTube, perché, e non parlo di Got League, Kings League, tutti quei campionati alternativi che stanno creando, che ovviamente poi una volta ne parleremo, perché non diventeranno mai roba seria, perché chiaramente nascono con un intento più giocoso, cioè nel senso proprio della spettacolarizzazione, no? Quindi sono un po' quello che vedevamo, che ne so, negli sport futuristici, nei giochi, soltanto applicato al calcio, no? Quindi, che ne so, con le carte, con le penalità e via dicendo, insomma. Però quindi non sto parlando di quello, io parlo proprio di sport, proprio nel senso più tradizionale del termine, no? E appunto c'era praticamente una squadra, l'Aurora, che io seguivo in particolare, che ha dato molto, molto spazio, diciamo, alla CSP, che è una di queste federazioni, e che a un certo punto ovviamente si sono rivolti, diciamo così, alla magistratura, nel senso hanno comunque denunciato la FIGC per questo atteggiamento, e quindi si è creata una situazione di ulteriore problema per quanto riguarda un po' la gestione di gravina della FIGC, non soltanto il fallimento del calcio nel senso più palese, dove ovviamente non ci si vuole rendere conto di quelli che sono i reali problemi, ma c'è anche questa cosa, questo atteggiamento monopolista, quasi come vuole dire qui il calcio in Italia siamo noi, no? E hanno perso grossi guai per la federazione, perché comunque questo atteggiamento, che viene considerato ovviamente dalla sentenza un atteggiamento di abuso di posizione dominante, comincerà a creare dei problemi anche dal punto di vista economico alla FIGC. Ecco, io penso che al di là di quello che diciamo sempre, che il calcio in Italia dovrebbe fallire, ricominciare e via dicendo, vabbè, poi ognuno di noi ha tutta una serie di sfumature di opinioni, perché secondo me i sistemi possono essere migliorati, rivoluzionati e riformati anche senza dover mandare magari migliaia di persone per stracci, insomma, no? Cioè, nel senso, cioè, ci sono tantissimi sistemi per poter risolvere certi determinati problemi. Però è chiaro che oggi il calcio in Italia deve fare delle riflessioni importanti relative al fatto che noi, tornando un po' al calcio, anche quello che crea più polemica, noi abbiamo la nazionale under 19 e under 17 che sono campione d'Europa, abbiamo la nazionale under 20 che è arrivata in finale del campione del mondo, l'under 21 che va decisamente bene. Che succede poi? E qui entra la politica, entra l'economia, entra la politica, gli interessi, i procuratori, i club, la gente come Gravina e via dicendo, tutti quelli attaccati a un sistema che piuttosto di smembrare questo sistema lo sgretolano. E in più ovviamente c'è questa questione della posizione dominante della FIGC all'interno di un contesto dove questa posizione dominante non è giustificata, e non solo non è giustificata, creerà ovviamente determinati problemi. Ma perché, ci si domanda, c'è bisogno di creare a livello amatoriale / semiprofessionale delle federazioni alternative alla FIGC? Perché? Questa forse è anche una domanda sulla quale bisognerebbe farci soffermarsi, metterci seduti a interrogarci, e ovviamente chi di dovere non lo fa, perché c'è altro dietro. Ho visto cose, il programma di Runtime Radio di Olivia Quattrocchi e Marco Gualdi, che esplora il meglio del cinema, della TV e del mondo dell'intrattenimento in generale, con un occhio decisamente diverso, originale e più che propriamente competente. Ogni venerdì mattina all'alba su feed RSS podcast di Ho visto cose ed ogni venerdì sera alle 21 su runtimeradio.it. Ammazza il casino Warlord, eh? Questi insomma già un po' più rientrano, diciamo, nel mio spettro, diciamo. Mrs. Victoria, va bene ragazzi, io direi che ci siamo, no? La prossima settimana parlerò di paranormale, ma non dei fantasmi, ma di tutto quello che è un po' l'ambiente iper controverso che ci gira dietro. Voglio parlare di quattro ristoranti per puntualizzare su una cosa, cioè nel senso, ho notato una cosa recentemente, ne sto riguardando su YouTube così a tempo perso mentre che mangio, no? E vorrei anche lì puntualizzare una cosa, poi troverò sicuramente l'argomento scottante della settimana che sicuramente ci farà fibrillare e sicuramente ne verremo a parlare chiaramente anche qui. Se avete poi dei temi o volete sapere magari come la vediamo insomma su quel tema, fatelo sapere, sapete come contattarvi. Potete intanto interagire con noi durante le dirette e non solo, anche durante il resto della giornata su telegram.me/runtime. Lì ci troverete sempre, quella è la chat Telegram ufficiale dove gli ascoltatori interagiscono con noi, sia durante le live che anche durante la giornata, dove trovate sempre qualcuno con cui fare una bella chiacchierata, oppure se volete soltanto essere informati su quello che succede, basta cercare ovviamente il canale broadcast Runtime Radio, sempre su Telegram. È un canale dove noi postiamo soltanto le informazioni necessarie per i nuovi podcast che escono oppure le live che stanno per andare in onda, e non, insomma, non è così invasivo, anzi diciamo cerchiamo di non esserlo per niente. Detto questo, scusate, ma stavo cercando di abortire uno starnuto, non credo di esserci riuscito, è lì, quindi devo parlare tenendo tirando fuori meno aria possibile, perché sennò mi passo a leticare il naso e poi faccio, non so se avete mai sentito come starnutisco io, è una roba veramente brutta. Grazie a tutti quelli che ci sono stati, mi raccomando ragazzi, suggerite appunto temi, state qui, continuate a supportare Runtime Radio, ma soprattutto insomma stateci vicini, raccontateci storie, commentate, diteci cosa ne pensate, le cose che diciamo e le cose che facciamo. Se vi capita ragazzi, è una cosa importante, soprattutto ora che viene l'estate e tutti gli incassi di Runtime Radio vanno sotto zero, andate su paypal.me/runtimeradio e fate una donazione. Io vi suggerisco di fare donazioni superiori ai 2 euro se è possibile, perché altrimenti PayPal si ciancica tutto quanto. In generale, no, a meno che non fate la donazione come amici, quella era Patreon, quella che si ciancica tutto quanto, quindi fate finta che non ho detto niente. Fate la donazione di quello che volete, se la volete fare, se no non la fate, non c'è assolutamente problema. Più sostenete Runtime Radio dal punto di vista economico, più noi continueremo a sopravvivere, perché ovviamente, come abbiamo detto, insomma, noi ci mettiamo impegno, anche se ci ascoltano in pochi, però poi la struttura continua a costare, i suoi costi c'erano prima e i suoi costi ci saranno anche dopo. Detto questo, io vi auguro un inizio di weekend, perché inizia adesso, insomma, diciamo, inizia stasera alle 6, dai. Stasera alle 6 inizia il weekend, state bene, divertitevi, bevete tanta birra se vi va, se no passatelo con la serenità e la tranquillità con chiunque voi vogliate. Grazie di essere stati qui con me, da Simone Pizzi è tutto, qui su runtimeradio.it, ci vediamo venerdì prossimo. Non so se ci sarà Runtime Radio Runtime by Night questa sera, penso di no, ma poi vi aggiorno. Ciao e buona giornata a tutti. Cerca su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio.